E l'autore ci lascia soli? Lui... Va bene. L'autore arriva, arriva. L'autore è un autore arriva. Particolare, sappiamo, insomma, lui non sta dentro gli schemi lui... che si sente non lì. Sta dentro, non sta dentro i tavoli. Bene. Allora, cosa facciamo? Posso sedermi? Ti devi sedere. Ah, grazie. È un ordine. Perfetto, io eseguo. Bene. Allora, ringrazio tutti con un abbraccio collettivo, non cito nessuno così non faccio torti a nessuno. Ringrazio in particolare allora l'assessore Primo Schensberg e l'autore evidentemente. La vostra presenza numerosa, molto numerosa a quanto vedo, testimonia l'affetto per questa città. La nostra Bolzano di oggi, cui la casa editrice che io rappresento, presenta un nuovo libro. Ecco la nuova vecchia Bolzano, riprendo Bruna Veneri in questa sua battuta nell'articolo di oggi, la cui novità di questo libro consiste nell'essere una raccolta di 62 brani raccolti in 17 capitoli, tratti e rielaborati da articoli apparsi sulla stampa locale in lingua italiana e in lingua tedesca che illustrano la Bolzano del passato, dagli Asburgo ai Savoia al fascismo alla Repubblica. Si tratta di articoli rielaborati e riscritti da Ettore Frangipane, comparsi sul dorso, l'inserto si chiama dorso, tanto per essere precisi con i termini, sul dorso bolzanino del Corriere della Sera, cioè il Corriere dell'Alto Adige, che ringrazio per la collaborazione che da sempre ha riservato un occhio particolare alle vicende e allo sviluppo della nostra città. Esattamente come la casa editrice che, dalla sua nascita ad oggi, è impegnata a dare voce e a far conoscere la cultura e la tradizione tedesca ai cittadini di lingua italiana e viceversa, a far conoscere la sensibilità e la cultura italiana a quelli di lingua tedesca. Questo è il nostro scopo, il senso della casa editrice Praxis 3. Dare voce agli italiani e far conoscere i tedeschi. Così posso riassumere proprio quella che si dice con un termine moderno, la mission della nostra casa editrice. Infatti la Praxis 3 ha fatto conoscere gli italiani dell'Alto Adige, ma anche agli italiani, a molti italiani del resto d'Italia, che poco conoscono le vicende di questa terra, i pilastri della letteratura politica dei sudtirolesi e mantiene sempre viva l'attenzione sulle tematiche della convivenza, dal patto De Gasperi Gruber allo statuto di autonomia, al bilinguismo, alle connessioni storiche con il Tirolo austriaco. Anche in questo libro, anche questo libro si colloca in questo clima e in questo sviluppo culturale. Ne risulta un ritratto della Bolzano in uno dei suoi periodi più significativi, cioè dai primi anni del Novecento al 1950. Sottolineo uno dei periodi più significativi. In questi 50 anni sono passate due guerre mondiali. Il Tirolo ha subito la lacerazione della sua divisione con lo spostamento del confine al Brennero. È passato il turbine di due dittature, quella fascista e quella nazista. Il piccolo, piccolissimo, originario comune di Bolzano, di poche migliaia di abitanti nei primi anni del secolo, soprattutto commercianti e agricoltori, si è ingrandito inglobando prima 12 ville nel 1911 e poi Gries nel 1926. In questo mezzo secolo è arrivata la luce elettrica, il tram, il telefono, sono state scavate fognature, sono state lastricate le strade, si sono sviluppati nuovi quartieri, la Neustadt del sindaco Julius Peratoner, poi i rioni monumentali e popolari, Vittorio e Dux, voluti dal fascismo, quindi gli agglomerati disordinati della ricostruzione postbellica. Sono nate e morte industrie, sono cadute tonnellate di bombe, dalle prime della prima guerra mondiale a quelle più devastanti della seconda. Si sono susseguiti spettacoli teatrali e cinematografici, annunci di razionamento del cibo quando si andava con la tessera a comprare la pasta e il pane, code per il pane, discorsi roboanti, manifestazioni impettite di una presunta potenza guerresca. 17 capitoli in cui si ricordano le prime avventurose donazioni di sangue, i morti per la febbre spagnola, il rischio a farsi operare di appendicite, i primi medici che furono 5 dell'ospedale civile di Bolzano all'inizio del secolo, La statua del povero, io dico povero, Walter von der Vogelweide, il Minnesänger più grande della poesia cortese tedesca, che ha subito i mal di pancia nazionalistici con la conseguente ripetuta rimozione da Piazza Walter per poi ritornarvi in momenti di maggiore equilibrio e buonsenso politico-culturale. E per finire, dall'introduzione del libro, ma il peso di queste pagine, ti cito testualmente, a giudizio di chi le ha scritte, sta nell'aver voluto offrire ai bolzanini, agli altoatesini e non solo a loro, un ritratto dei tempi che sono stati, 50 anni di cronache delle quali noi, i nostri genitori, i nostri nonni, sono stati protagonisti veri. E questo anche a buona memoria dei nostri figli e nipoti, perché sappiano quello che è stato e se ne ricordino. In un quotidiano di ieri si annunciava che il libro esce con il sostegno del Comune e della Provincia. La notizia purtroppo non è esatta, perché finora abbiamo avuto solo labili promesse. E allora questo non lo dico casualmente. Speriamo. Già mi dolgono. Speriamo invece che, dato lo spessore del libro e la sua finalità culturale, le due istituzioni citate si passino una mano sulla coscienza. Sono portafoglio, vorrei dire. Sulla coscienza. Si chiama coscienza. Va bene. Sono convinta che questo libro sarà una rivisitazione interessante, perché è stato testimone dei fatti narrati e una storia nuova di zecca per i più giovani. I giovani non sanno niente, voi lo sapete. Per entrambe le generazioni un contributo utile a consolidare le fragili radici dell'identità bolzanina, nella speranza convinta e cocciuta di lavorare per la comprensione e la condivisione della tradizione attraverso la memoria. Ah, giustamente Ettore mi dice che il libro si può acquistare là in fondo a destra, dove c'è la signora Letizia che vende il libro della libreria Libri e Libri. Eccola il libro. L'hai visto stamattina? Dentro la vetrina, trattenuto perché volevo aprirlo in tua presenza. Ah, perché tu non l'hai visto ancora? No, è una grande. Ecco. Adesso questa è. Grazie. Però. Sì, per dopo lo scappiamo. Quindi. Eccoci. Diamo la parola all'assessore, alla cultura. Allora, intanto ringrazio, buonasera a tutte quante, a tutti quanti, saluto e ringrazio Pinuccio e saluto soprattutto Ettore, permettetemi di chiamarli così perché al di là del ruolo che adesso c'è, insomma, che è formale, certo, l'autore di una nuova, interessantissima e delicata pubblicazione che riguarda la nostra città, ma poi un'editrice, ma, insomma, per vicende diverse c'è anche un rapporto di amicizia che mi lega a loro, più radicata nel tempo con Pinuccia, un po' più fresca la nostra, però voglio dire molto molto intensa, e devo dire che se in questi 18 mesi da quando ho assunto è stata affidata la competenza della cultura nella città di Bolzano, devo dire anche devo molto al carattere di Ettore, che tutti o molti di voi conoscono, è uno che spinge, anche l'ultima volta che ero qui in un incontro della Biblioteca Provinciale Italiana è ritornato su un tema caro a lui, caro a me, ma credo un po' a tutti quanti, che sono i ruderi del teatro, e quindi mi ha messo sotto pressione, ma dico questo perché la nostra città è una città di grandi passioni, loro ne sono la rappresentazione questa sera, Pinuccia naturalmente, Gesaro, rispetto alla capacità di trasformare in una attività culturale imprenditoriale le sue passioni e la sua visione della nostra comunità, e Ettore che frangipane, che dando continuità a quella che è stata una dimensione professionale importante, non ha attaccato al chiodo questa capacità e invece l'ha rimessa in disponibilità. Ogni volta che c'è una presentazione di una sua opera, io credo che una parte del torpore, della polvere che ha coperto pezzi della storia della nostra città, ma anche dimensioni anche reali, venga così riportato in disponibilità. E se nella sua introduzione Pinuccio Gero faceva proprio riferimento a alcuni sentimenti, beh, io credo che se la passione è una dimensione importante, quella individuale e quella collettiva, che cosa ha mosso voi a venire qui? La stima naturalmente per lo scrittore, l'invito della Biblioteca Provinciale Italiana, ma io credo c'è una grande passione nel modo di vivere questa nostra comunità che ha ancora la capacità di confrontarsi, a volte scontrarsi, a volte con più ragione, a volte con meno, ma voglio dire a vivere. Certo, non tutti quanti naturalmente siamo accompagnati da questa modalità, ma io direi che assieme alla passione c'è un altro elemento, e io vorrei proprio fare una riflessione di questo tipo, perché questa nostra città ha bisogno sì di passione e di passioni, ma credo che abbia bisogno anche di tanto amore. So che è un termine che naturalmente non si usa mai in questo tipo di conferenze, ma io credo che c'è un qualche cosa che ci lega al luogo dove noi o siamo nati oppure abbiamo trascorso una parte significativa della nostra vita. Io credo che non sia importante che noi la vediamo nella stessa maniera sui luoghi che ci fanno discutere, ma io credo che sia importante per una città, che una comunità di donne e di uomini che pensano anche in modo diverso rispetto agli avvenimenti del passato ma anche dell'oggi, ci sia invece sempre quella dimensione molto personale, molto intimistica, ma che riesce invece a mettersi anche in relazione, in confronto con gli altri, perché noi vogliamo esserci e esserci naturalmente nella capacità però di vivere, di criticare quando è giusto criticare, di sollecitare l'amministrazione pubblica come ha fatto giustamente questa sera la mia amica Pinuccia, poi spiegherò anche alcune cose, ma insomma di esserci e di poter donare. Lo facciamo naturalmente nella dimensione del nostro vissuto quotidiano, lo facciamo dove lavoriamo, ma credo che ci sia un'altra dimensione importante che può essere ancora di più rafforzata, è l'attenzione che mettiamo a la nostra comunità. Certo, vivere in una comunità più piccola, una dimensione naturalmente non di una città da oltre 100.000 abitanti, forse è più semplice, più facile le relazioni. Qui naturalmente Bolzano ha tanti meriti, compreso anche il fatto che a volte si riesce a non vedersi per anni pur vivendo contemporaneamente. Però c'è quest'altro aspetto, che è quella che abbiamo la necessità e la possibilità, perché il riferimento alla memoria che si faceva prima credo che è un'opportunità ma anche un dovere. Eri tu che hai detto prima che i nostri ragazzi, quelli che poi voglio dire sono i nostri figli, sì, io dicevo a lui, facevo questa battuta e dicevo, beh, in fin dei conti sanno quello che anche noi gli abbiamo potuto raccontare, quello che gli abbiamo voluto raccontare, voglio dire, passa anche naturalmente anche da un'assunzione di responsabilità individuale. E in questo torno invece all'opera di Ettore Frangipani. Io credo che con questa pubblicazione lui non solamente ci ripropone le fatiche di un lavoro degli ultimi anni, ma ci invita proprio a guardare a questa dimensione di questa nostra città che si è, come dicevi tu, profondamente trasformata nel secolo breve, nel Novecento. Noi guardiamo attentamente, no? Ancora oggi viviamo, siamo impastati di tutti gli elementi che hanno unito, diviso, lacerato la nostra comunità, ma c'è questa necessità di recuperare e di rimetterlo in disponibilità, proprio perché questa è una memoria che rischia naturalmente anche di smarrire. Io dico sempre che se noi vogliamo guardare, lo dico a me stesso, perché non ho elementi per poterlo dire ad altri, parto naturalmente con una dichiarazione così che faccio ad alta voce. Io credo che davanti alle sfide che anche la nostra città ha, che sono sfide impegnative, perché davanti a tutti gli elementi che ogni giorno i mezzi di informazione portano dentro le nostre case, c'è una dimensione di interrogativo forte su elementi profondi che non sono solamente quante volte passa l'autobus sotto casa nostra o se aumenta o non aumenta il prezzo del parcheggio. Sono questioni, voglio dire, della dimensione valoriale su un futuro molto impegnativo, ma dove ci siamo anche noi, dove c'è la nostra città. E quindi riproporre, avere questa capacità di conoscere meglio e diffondere, quindi c'è una dimensione proprio non solamente di tipo personale, qui c'è una dimensione proprio di amore verso la possibilità di riproporre un passato che rischia di andare in un oblio e di perdersi, ma con una finalità molto costruttiva. E io non credo che tu abbia guardato solamente a ieri, ma tu abbia guardato agli elementi di ieri per cercare di illuminare il nostro cammino davanti a noi, e quindi apprezzo anche non solamente questo ma anche le altre fatiche che hai fatto. e credo, e qui vado a concludere questo mio saluto, ma anche questa riflessione, è un periodo che considero anche positivo. Guardate, nelle ultime 3-4 settimane la nostra città è stata luogo di alcune presentazioni importanti. L'altra settimana eri presente anche tu, c'è stata la presentazione di questo libro fotografico curato dal dottor Hannes Obermeier, che è qui, che mi ha accompagnato insieme al dottor Filippi, uno il direttore dell'archivio storico, l'altro il direttore della biblioteca comunale, il direttore del museo civico invece è impegnato per l'evento di domani e quindi non ha potuto, e quindi vi saluta e lo rappresentiamo noi tre in termini a nome dell'amministrazione comunale. C'è stata questa presentazione del libro fotografico della Bolzano dall'850 al 950, anche perché c'è una parte della nostra comunità che è convinta che naturalmente la storia della nostra città sia incominciata nel 18, no? È importante naturalmente sapere cosa è successo lì e dopo, ma c'è anche un prima che è importante, e quindi quando si fanno interventi di questo tipo io credo che si fa un grande atto di non solamente un grande atto culturale, un grande atto di tipo giornalistico e di autore, ma si fa veramente un grande atto di amore nei confronti della nostra città. L'altro elemento è quello della recente proprio dell'inaugurazione che è avvenuta ieri della mostra presso il Museo Civico, che consente anche lì di rimettere in disponibilità, certo, a chi vuole, non è un obbligo, ma io credo che sul versante dell'ente pubblico quello che non è possibile non fare è offrire opportunità di aprire l'attenzione e venire in contatto con un passato che non è così diffuso, anche perché il sistema scolastico, come ci ha ricordato recentemente proprio in questo luogo il vicepresidente della giunta provinciale, ancora rispetto a quella che è la storiografia locale non ha fatto i passi per adeguarlo all'assetto anche istituzionale. Quindi concludo con un ringraziamento e con un invito naturalmente a non cambiare stile e a continuare naturalmente a pungolare. Devo una risposta che è doverosa rispetto alla sollecitazione. Io l'ho detto anche a Ettore Frangipane quando ci siamo incontrati quest'estate più volte. Noi abbiamo un limite come amministrazione comunale, che è quello che non abbiamo oggi dal punto di vista regolamentare la possibilità, a differenza di ciò che invece consente il regolamento a livello provinciale, di intervenire direttamente sulle opere prodotte da artisti. Quello che naturalmente è per noi importante invece che questa pubblicazione, superato anche il momento della sua presentazione alla comunità, rimanga in disponibilità nel circuito naturalmente delle nostre biblioteche e soprattutto possa diventare anche una forma di rappresentanza della città rispetto a tutti coloro che vengono. Quindi possiamo ascriverci naturalmente, ritirarci nella dimensione di acquirenti, in modo tale che però l'opera da questo punto di vista abbia naturalmente la diffusione, il successo no, perché il successo è già decretato naturalmente dalla presenza di chi. Grazie ancora veramente. Dunque, io anzitutto vi devo dire che sono dispiaciuto del fatto di vedere tanta gente in piedi. Ci sono dei miei amici in piedi là e questa è una cosa che se fosse almeno che possono venire avanti. Vi presento qua il dottor Gotthard Andergassen, che con me un anno fa ha fatto un libro sui 200 anni di Piazza Walter. Lo invito a sfilare fino al limite e tutti quanti insieme a muoversi un pochettino, in modo che almeno le persone che sono in fondo là possano avvicinarsi un pochettino di più e trovare una sistemazione più agevole. Ecco, vedo qua Filippi, vedo Obermeier, mi spiace, i miei amici là in fondo, dai. La signora fa presente che pesiamo troppo e rischiamo di passare al piano di sotto, ma sono sicuro che non sarà così, ho fiducia. Mettiamo a disposizione le nostre seggiole. Se... Ma sì, direi di sì, io perlomeno... Se qualcuno vuole, perché la signora, possiamo grazie. Stare... Prego. Sì. No, signora, dai. Prego. No, voglio prendere un atteggiamento anche informale, se è possibile. Senza... Ettore, tu cedi? Quindi io cedo. Perfetto, io cedo. Vediamo in due. Ora, io ho la metto qua. Perfetto. Bene, allora incomincio questa mia chiacchierata. Dovrei risalire a quando ho cominciato a sfogliare i vecchi giornali. Sono andato in pensione nel 1995, mi sono interessato subito di sport perché lo sport era la mia specializzazione alla RAI. Ho proposto l'istituzione di un museo dello sport Alto Tesino a Bolzano. La cosa è stata recepita dalla provincia in una certa misura, cioè nel senso che mi hanno detto: senti, facciamo una mostra e facciamo un libro, tu curati del libro, che poi ho fatto solo per sport, 500 pagine di storia dello sport Alto Tesino, interessantissime. Per fare questo lavoro ho dovuto incominciare a sfogliare i giornali dal 1900. Biblioteca Tesman, volumi così, pagina su pagina, e poi avanti, fino a raccogliere tutto quel materiale che mi ha consentito quel libro e mi ha fatto innamorare della possibilità di ricostruire la storia di Bolzano, e non solo di Bolzano, attraverso la lettura, le cronache di vecchi giornali, che è una cosa, vi assicuro, estremamente interessante. Leggere oggi un giornale del 1918, 19, 25, del 1909, sono cose che al limite commuovono, perché ti propongono un mondo completamente diverso, incredibile per i problemi, per tutta una mentalità che è cambiata. Come giustamente diceva la professoressa Di Cesaro, noi in questi, e lo sottolineo anch'io, in quei 50 anni che io ho esaminato, che vanno dal 1900 al 1950, hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni, in Alto Adige qualcosa di inimmaginabile: il passaggio dagli Asburgo ai Savoia, al fascismo, alla liberazione, lo spostamento del confine, a parte poi il discorso etnico, diciamo così, la cresciuta presenza del gruppo etnico italiano in seguito alla politica del fascismo. Cioè, Bolzano è completamente sbagliato, ci sono state due guerre di mezzo, ci sono stati bombardamenti, Bolzano è stato bombardato 23 volte nella seconda guerra mondiale, c'è qui l'avvocato Tattara. Eravamo al Colle quando le bombe cadevano, abbiamo dei ricordi precisi, ci sono stati 200 morti non ufficiali, perché non si sa quanti sono stati i militari germanici che sono caduti, il 350 case di Bolzano sono state rase al suolo. Il mio amico professor Romano Santi mi raccontava che era nella galleria del Virgolo mentre cadevano le bombe, ha sentito tutto questo massacro, ha visto arrivare dei feriti, è uscito per andare a casa, abitava in Viale 30, la casa non c'era più. Queste qua sono le esperienze che i più anziani di noi hanno vissuto, che i nostri genitori hanno vissuto ancora più crudamente sulla loro pelle, perché oltretutto c'erano anche problemi di sopravvivenza, mangiare, non mangiare, tutte queste cose. Ecco. Io ho voluto ricordare la Bolzano del passato, senza particolari riferimenti a questa seconda parte che dovrebbe rientrare nel libro dell'anno prossimo, se avremo la fortuna di poterlo stampare, ma ho indagato, incominciando dai quattro giornali di Bolzano che mi hanno colpito di più, che erano quelli d'epoca asburgica, la Bozner Zeitung, la Bozner Nachrichten, il Tiroler Volksblatt e il Tiroler. Che, pensate, Bolzano, che è una cittadina da niente, aveva quattro giornali, pensate un pochettino, aveva in tutto sui 14.000 abitanti, un decimo di questi erano italiani, aveva quattro giornali, due cattolici e due clericali, due cattolici antisemiti, e questa è anche è una cosa da sottolineare, veramente curiosa, che erano il Tiroler e il Tiroler Volksblatt, e due laici, che erano la Bozner Zeitung e la Bozner Nachrichten, laici e liberali, che guardavano a Berlino, mentre gli altri due giornali guardavano a Vienna. Sono tutte cose che non si sanno, che sono veramente interessanti. Il sindaco Peratoner era un liberale laico. Quando ci fu si festeggiò il giubileo di Papa Leone XIII, suonarono le campane a Bolzano e il sindaco fece una multa alla curia per rumori molesti. queste sono realtà curiose, belle, interessanti, che si possono leggere sfogliando i giornali d'allora. Ecco, io ho cercato, ho scremato e ho tirato fuori tante notizie che appaiono settimanalmente, prima sull'Alto Adige, adesso soprattutto, anzi solo, sul Corriere dell'Alto Adige, ogni domenica ne trovate una, e le ho raccolte nella misura di 62 articoli, queste sono 220 pagine, 118 fotografie, purtroppo non vi posso proiettare le fotografie perché la cosa sarebbe stata possibile nella saletta di là, ma è più piccola ancora di questa, quindi non ci saremmo stati, visto dalla gente purtroppo prima a guardarsi attorno e andarsene via, la cosa mi è anche dispiaciuta. Bene, ho raccolto tutta una serie di articoli che ho ordinato per materia e adesso qualcosa vi propongo, anche perché l'interessante non è solo l'apprendere i fatti, ma trattandosi di articoli di giornali è interessante vedere il linguaggio di questi giornali, come si scriveva allora, che è una formula, un modo di scrivere assolutamente diverso da come si scrive oggi, fa sorridere, ma è così, è il nostro passato, è il loro passato, dei nostri genitori, chissà domani come scriveranno i nostri figli e i figli dei nostri figli. Ho incominciato con Bolzano si espande, vecchie e nuove architetture. Rapidissimamente, Bolzano è stata violentata due volte, prima dal pangermanesimo, poi dall'italianizzazione, aveva un suo aspetto, poi a cavallo tra il 1800 e il 1900 ci sono cominciati a costruire questi strani palazzi di stile eclettico, come si suol dire, vedete l'alta via Cassa del Risparmio, dove c'è, sono tutti questi pinacolini, no? Si chiama stile eclettico, ci sono elementi gotici, romanici, barocchi, tutto insieme. Hanno fatto violenza, era la concezione germanocentrica di Peraton, De Leitch, eccetera, eccetera. Su questa realtà se n'è stata poi la realtà fascista, che ha fatto violenza ulteriormente, imponendo questo stile razionalista che a me piace, ma che Bolzano non ha molte radici. E l'aspetto più emblematico, mi pare, possa essere rappresentato di questa dialettica, possa essere rappresentato dal blocco di case che si trovano all'angolo fra via del Museo e via Cassa del Risparmio, dove c'è la Cassa del Risparmio. La Cassa del Risparmio era una costruzione fatta nello stile di allora, è stata rifatta in stile razionalista fascista, e là vedete appunto questo stridio, questo stridore nell'accostamento di elementi germanici con elementi italiani. Ecco, questo è un po' un simbolo dell'architettura come si è venuta a determinare a Bolzano. Purtroppo l'immediato secondo dopoguerra non ha portato nessuno stile, ha portato soltanto caos. E si sono rovinate delle case bellissime. In epoca asburgica si è fatto l'hotel Bristol, per esempio, che è stata una cosa meravigliosa, che io mi ricordo ancora tutta la storia, mi sembrava un po' l'Excelsior dell'Ido di Venezia, tanto per dire, no? Fantasiosa, arabeggiante, raso al suolo, non dalle bombe, dal proprietario per farne degli uffici, degli appartamenti. E cose così. Vecchie nuove architetture, un municipio tutto nuovo, il nostro municipio è del 1908, prima si trovava in via dei Portici al numero 30, e il curioso è questo, che quando è stato fatto il nuovo municipio, grandi festeggiamenti naturalmente, in piazza del municipio, che allora si chiamava Piazza Trinità, Dreifaltigkeitsplatz, e nella sala consiliare del vecchio municipio si è andati a insegnare la prima sala cinematografica di Bolzano, che era il film, il cinema Eden. È vecchissimo l'Eden che c'è qui a Bolzano, solo che allora era in via Portici, si è sempre chiamato Eden, tolto un periodo curiosissimo, 1935, guerra d'Africa, e la Gran Bretagna assedia l'Italia, cerca di impedire i rifornimenti per il regolare svolgimento della guerra, le inique sanzioni. Chi è il primo ministro britannico? Anthony Eden, Anche i fascisti dicono che non è possibile intitolare ad un nemico del cinema di Bolzano. E allora lo chiamarono Luce. E poi tornò ad essere, naturalmente adesso, il cinema Eden. Una cosa curiosa. Ci sarebbe tanto da dire sulle altre sale cinematografiche, ma io già capisco che mi sto perdendo e che vi faccio perdere il momento della cena. Il Palazzo Ducale. Ecco, il Palazzo Ducale è anche una cosa curiosissima. Lo chiamiamo Palazzo Ducale ed è il Palazzo Ducale perché vi abitava il Duca di Pistoia. In origine il Palazzo Ducale era una villa, si chiamava Villa Wendland, di un ricco cittadino germanico, bellissima villa tra l'altro, è stato veramente un delitto abbatterla, contornata tutto attorno, noi vediamo il fiorire di tutti questi cedri enormi, grandi, non c'era niente di tutto questo, c'erano solo vigneti, c'era questa Villa Wendland solitaria lì, e fu questa villa sequestrata dal governo italiano in conto riparazione danni di guerra, divenne governativa, fu abbattuta e fu costruito l'attuale Palazzo Ducale, che all'epoca però chiamarono Villa Reale. Quale fu la funzione di questo edificio? Quello di consacrare in un certo modo la presunta italianità di Bolzano, perché la villa reale fu realizzata per ospitare il Duca di Pistoia, che era Filippo di Genova, di Savoia-Genova, quindi un Savoia, Duca di Pistoia per l'appunto. La sua presenza qui avrebbe ratificato in un certo senso l'italianità di Bolzano. Se andate a vedere l'ingresso della villa, vedrete non ci sono più dei fasci che sono stati martellati, ma ci sono tuttora degli emblemi dei Savoia. Venne il Duca di Pistoia e io vi voglio raccontare un pochettino, non vi citare questa bella prosa. Vi voglio raccontare dalle pagine della provincia di Bolzano, 21 aprile 1932. Titolo: Bolzano italiano e fascista accoglierà oggi esultante le loro altezze reali Filiberto di Savoia e Lidia di Arenberg. Il Duca di Pistoia, questo Savoia-Genova, era per parte di madre di origine tedesca. Forse per questo l'hanno scelto. La moglie, Lidia di Arenberg, era belga, una principessa belga, che aveva anche lei un'origine tedesca. Forse l'italiano non lo parlavano, comunque rappresentavano qualche cosa. Le loro altezze reali, i duchi di Pistoia accolti con fervida unanimità ed entusiasmo. L'omaggio al monumento alla vittoria, ogni marcia terminava là. L'assunzione del comando del 232esimo fanteria, affidata al duca di Pistoia, fiere parole alla truppa. Il principe parla alla gioventù fascista: a voi tendiamo lo sguardo con ammirazione e simpatia perché siete la sicurezza della patria. E poi il corteo che accompagna il duca nella sua nuova residenza. Il corteo delle automobili è brevissimo, non preoccupatevi. Sulla prima vettura prendono posto il gentiluomo d'onore Conte Balbo Divina Dio e il Conte Balbiano di Aramengo. Non me lo sono inventato io, è visto un Conte di Aramengo. Nella seconda macchina i duchi di Pistoia, Sua Eccellenza Marziali, il prefetto, e l'aiutante di campo Conte Teodorani Fabri. Nella terza la dama di corte Contessa dalla Croce. Il mondo diverso, è un altro mondo, è il mondo del c'era una volta questo. Sua Eccellenza Baistrocchi, l'onorevole Miori e il colonnello Villasanta. Nella quarta il senatore Tolomei, quello che si chiama come me, Ettore Tolomei, gli onorevoli Chiesa e Dalla Bona e l'ingegnere cavaliere ufficiale Rizzino. Nella quarta, cioè c'era una quarta macchina prima e adesso c'è un'altra quarta macchina, no? i giornalisti sono sempre un po' approssimativi, lo si sa. Il commendator Bottomica, il commendator Valgoi, il commendator Carretto, nella quinta il console generale Manzoni, il commendator Magaldi e il cavaliere dottor Solinama, capo gabinetti di sua eccellenza Marziali, il corteo delle macchine preceduto da un protone di carabinieri a cavallo e da un gruppo di vigili urbani in bicicletta, patetici. Muove lentamente mentre gli alalà, le acclamazioni rinnovatesi si confondono col rombo degli aeroplani del campo di San Giacomo che volteggiano nell'aria. Questa era la prosa di allora, una prosa che io trovo patetica, e sorridente e anche divertente, però vera, reale. E i nostri genitori leggevano queste cose, insomma, io non so fino a che punto ci credessero. Mio padre era molto scettico, non lo ricordo. E io ero balilla, ogni tanto usciva in espressioni che disturbavano, perché io naturalmente ero balilla. Un teatro per Bolzano, ecco un altro argomento interessante. Il teatro di Bolzano, il vecchio e il primo teatro, si trovava nell'attuale Kaiserkron. Era il vecchio teatro della vecchia Bolzano, della vecchia nobiltà commerciale di Bolzano, che aveva posto praticamente dove oggi c'è Lupin. Dopo il Kaiserkron, là si aprì una sala cinematografica, Cinema Centrale. Io penso che molti di voi ci saranno stati al Cinema Centrale. Io là ho visto al cinema le prime tette della mia vita, nel senso che sono andato a vedere un film, Fanfan la Tulip, e c'era Martin Carol, mi pare, che a un certo punto, un attimo, si è aperta la camicia e si sono visti. Aiuto, che bello. Allora ho detto a mia madre che le offrivo il biglietto e sono tornato a vedere il film. Guardate che questo è vero. Furbacchione. Furbacchione. È stato così. Solo che il Kaiserkron naturalmente a un certo punto non era più all'altezza della situazione, e allora il comune di Bolzano decise la costruzione del teatro che è stato chiamato, che è lo Stadttheater, il teatro civico, è stato chiamato poi successivamente in epoca fascista Teatro Verdi. C'è la guerra, si combatte. Il fronte è vicino, il comune di Bolzano ha il coraggio di costruire il teatro e di inaugurarlo nell'aprile del 1918. Pensate un pochettino. Il progetto di Max Littmann, che era un germanico di Monaco di Baviera. Spesso l'ispirazione, come vedete in precedenza, viene da lì. Ho scritto molto sulle manifestazioni dell'epoca, ma vi voglio citare le Bozner Nachrichten del 12 aprile 1919, le quali dicono che bisogna stare attenti ai programmi, perché non tutte le rappresentazioni teatrali sono all'altezza della situazione. Nel dibattito consiliare, il comune si fece presente l'opportunità di evitare contenuti dozzinali e si ricordò che, virgolette aperte, rappresentazioni parigine o scritte da ebrei ungheresi, chiuse le virgolette, non erano edificanti. Questo è quel sottile filo antisemita che vi dicevo rientrava nella politica dei due giornali cattolici di Bolzano. Peraton, tra l'altro, è stato un grande uomo. Ha amministrato Bolzano per 27 anni, mi pare qualcosa di più, ed era oserei dire anti-italiano, ma non era anti-italiano, era anti-trentino, perché c'era la Verwelschung, l'italianizzazione, era il portarci dei trentini a Bolzano, non dall'Italia cosiddetta remicola. E una volta in occasione di un congresso di socialdemocratici, che si svolse dove adesso c'è l'orchestra l'auditorium Haydn, lui disse a questi socialdemocratici: c'è qualcosa in comune tra voi socialdemocratici e noi liberali, è l'anticlericalismo. Questo diceva un sindaco di Bolzano, pensate un pochettino, con vanto. Andiamo avanti, vediamo cosa altro vi propongo. Vi ho proposto in questo mio libro, dalle sale civiche al circolo ufficiale. Il circolo ufficiale si trovava, Bürgersaale, poi il circolo ufficiale si trovava dove adesso c'è il teatro nuovo. Allora quella piazza, che adesso è Largo Verdi, Piazza Verdi, era piazza del mercato, era intera battuta, là arrivavano i circhi, i baracconi, si proiettavano i primi film, prima ancora del cinema Eden, c'era un po' di prostituzione a spasso, come naturalmente qua. Ho parlato della biblioteca civica Cesare Battisti e voglio arrivare al treno costruito nel 1867. La linea ferroviaria fu progettata in parte da Luigi Negrelli, trentino di fiere di Primiero, Baron Alois von Negrelli, e si è trasferito a Vienna ed è stato insignito di queste onorificenze da parte della corte viennese. E la stazione di Bolzano, che era un po' diversa da quella di adesso, sorgeva in piena campagna nel comune di Dodiciville, in piena campagna. Una ferrovia per l'Oltradige, 1898, la Bolzano, la Vatta di Caldaro, vi ricordate la Vatta di Caldaro? E poi tutti in tram, 1904, con un epico tram che parte da Piazza della Stazione e arriva. Il tram aveva la funzione di collegare i due comuni diversi, Bolzano e Gries, che erano separati. Tra Bolzano e Gries c'era una Reichstrasse, c'era una strada statale, che era l'odierna via Dirz. Non c'era Corso Libertà, che si è chiamato all'origine Corso 9 Maggio, il giorno della proclamazione dell'impero. C'era quindi questa strada statale intera battuta che serpeggiava. Era campagna, quindi i molti che arrivavano per trascorrere le loro vacanze, spesso malati, c'erano molti tubercolotici che venivano e morivano a Bolzano, a Gries, avevano difficoltà a raggiungere Gries e quindi si è fatto il tram che poi risaliva tutta via Fago fino su in cima all'Hotel Austria. E via Fago si chiamava Habsburgstrasse, tra parentesi, no? Vediamo di raggiungere tutti in tram, non ho scritto niente, non vi voglio citare niente, vi ricordo il Virgolo, la funicolare costruita nel 1907, qua c'è la storia anche dell'inaugurazione, sono cose estremamente simpatiche, il Renon, la cremagliera del Renon, il trenino del Renon partiva da Piazza Walter, faceva quella che all'epoca si chiamava la Bismarckstrasse, che era la strada, o l'odierna strada della stazione, poi è diventata viale Vittorio Emanuele III e adesso è giustamente viale della stazione. Poi la funivia dei primati, nel 1908 la Bolzano Colle, della quale ci sono delle fotografie che sono veramente uno schianto, delle carriole che salivano con dei pilastri, con dei tralicci di legno che le sostenevano, ci voleva un coraggio epico, secondo me, per salire su quelle cose. E non ci fu mai un incidente, mentre ci furono incidenti con orti sulla ferrovia del Renon. Auto a Bolzano, qua ci sono delle citazioni che vorrei fare, perché l'auto a Bolzano. Dunque si dice che la prima auto a Bolzano fu acquistata da un certo Franz Berger nel 1906. Era una De Dion Bouton, non so cosa potesse essere. Un mostro da guardare con rispetto e sospetto, scritto io. Ecco, il Tiroler del 23 dicembre 1917, sotto il titolo La piaga del traffico automobilistico a Bolzano, scriveva che nelle vie del centro si avevano ampi motivi di lamentarsi perché c'era che toccato una cosa insopportabile. Le case tremano con tale intensità che vi si aprono numerose crepe e le crepe precedenti si allargano. L'abitarvi non è più da annoverarsi tra le cose piacevoli della vita e gli ammalati sono tormentati a morte dalle vibrazioni provocate dalle auto. Se le vetture dispongono di ruote di ferro, adesso capite perché tremavano le case, non è il caso di caricarle più di tanto, al punto da provocare grosse vibrazioni su strade strette. La cosa può essere risolta se i veicoli si muovono alla stessa velocità di un traino di cavalli. In effetti a un certo punto si stabilì che la velocità massima per una macchina per le strade di Bolzano fosse di 3 km all'ora, come camminare, insomma. Gli attuali 30 all'ora di adesso. Gli attuali 30 all'ora che nessuno nessuno osserva. Poi ci sei una bella storia. L'auto nella valle, l'automobile era visto con estremo sospetto, era rifiutata. Questo è un episodio bellino che il Tiroler Tagblatt racconta nel 1907. Un gendarme ferma il veicolo vietandogli di proseguire. Dunque dovete sapere non si poteva transitare in Val Badia, c'era il divieto di transito, anche sulla statale della Valdega, parlo sempre di prima, della prima guerra mondiale, c'era il divieto assoluto di transito, qualcuno lo faceva lo stesso, ma la gente del posto non sopportava questa realtà. Siamo in Val Badia, a bordo di questa macchina, nel 1907 si trovano, oltre all'autista, un conte ed alcuni ufficiali del Regio Esercito italiano. Essendo italiani ce ne sono fregati e sono andati su in macchina lo stesso. Dunque, li affronta un gendarme, loro si dichiarano disposti a pagare la contravvenzione di 400 corone, che era una bella somma, poi pagano, poi girano la macchina per tornare indietro, no? Dice il gendarme, no? Voi cosa intendete fare? Torniamo, no? Motore spento, come si fa a tornare giù in fuori, fino in Valle Posteri? Cavallo. Allora prendo il cavallo, aggiogano alla macchina e si comincia a scendere, se non che non tutto è discesa, c'è anche qualche breve salita, come si fa? Allora il cavallo tira, non ce la fa da solo, allora il conte, gli ufficiali, tutti a spingere dietro e il gendarme a guardare. Pare che il gendarme abbia fatto tutta la strada a piedi fino a Fondovaglia a questo punto e poi se ne è tornato a piedi. No. Avventura in Valdega, sempre di automobili, no, qui non ho citato niente, ho citato l'incendio del Grand Hotel Carezza, a meno che non vi sia un brano che meritasse, ma non vedo che non ho sottolineato questo qua. Io questo libro l'ho avuto stamattina, quindi è un miracolo che ci sia qua, tra parentesi. Questo è interessante. L'Alto Adige, 31 dicembre 1921, Alto Adige era non è il giornale di oggi, era una rivista che poi è diventato l'organo ufficiale del CAI Alto Adige, che scrive: la società automobilistica Stat, con lodevole intento, ha organizzato gite festive all'incantevole passo di Carezza, parentesi, Carerplatz. Carerpass, vedete il bilinguismo come era sentito prima del fascismo. L'automobile fila brillantemente forzando col valido motore la stradetta coperta di brina e di ghiaccioli. Ecco Pirkapruk. Pontenova, ma qui è Pirkapruk. Certo. Paesù color mito, Welchnofen, chiusa parentesi, Nuova Italia, era la nuova definizione, no? Nuova Italia. Quei suoi paesini indimenticabili nelle osteriuzze dalle legnose pareti e coi suoi imponenti carabinieri reali. Ed ecco su una larga spianata il Kadersee Hotel. Se ci fossimo fermati al 1921, forse adesso non ci sarebbero tutte le storie delle toponimi, non toponimi, insegne, non insegne. C'era un bilinguismo naturale, naturale. Vedo una sedia libera là, ma perché c'è della gente in piedi? Perché è scappato. No, vedo la signora Sandra Zamunaro, per cortesia. No, vabbè. Adesso siamo ai primi semafori. A Bozzano arrivano i semafori, è una novità. Siamo nel 1938, quindi io non vi voglio dire cose che sono avvenute in epoca asburgica, vi parlo del 1938, io vivevo da 4 anni nel 1938, arriva da Bolzano, che cosa? I primi semafori. Vedo l'assessore, no, tu non sei assessore al traffico e ai trasporti, tutta sta semaforeria di Bolzano di oggi non è colpa tua, no? Però pensate a quanti semafori ci sono oggi, nel 38, nel 38. 29 maggio 38, provincia di Bolzano, naso all'insù, molta gente si è soffermata in questi giorni ad osservare uno strano ordigno che pende da un filo sulla strada all'incrocio deprecato della vecchia via Goethe, tra via Goethe e via della Mostra, che si chiamava all'epoca via Principe di Piemonte. Che sarà, che non sarà? La spiegazione è apparsa chiara di prima sera, quando il bizzarro ordigno ha incominciato ad emettere una luce giallognola tremolante da quattro occhi mostruosi. Ecco, è un semaforo. Per essere più precisi, è anzi un cosiddetto lampeggiatore, nome che deriva dalla sua funzione di mandare lampi a monitori ad intervalli regolari, come dire attenzione, attenzione, attenzione. Ed attenzione ce ne vuole parecchia, infatti, a questo incrocio, dove un traffico intensissimo si svolge in condizioni di viabilità quasi impossibili. All'epoca la parte terminale, diciamo, verso via Goethe, di via Principe di Piemonte, oggi via della Mostra, era più stretta di oggi, perché dove adesso c'è il Monica c'era un altro portico, un porticato ancora, c'erano dei portici ancora, ecco. Quindi la strada era, io mi ricordo che là c'era un'edicola, mio padre mi dava 50 centesimi quando si andava a messa e io li compravo il Corriere della Sera, 50 centesimi, e c'era la strada, era strettissima, ma ci passava il tram, si passava il tram. Il bello del tram che ci passava era che andava una volta di qua, una volta di qua, sullo stesso binario, quindi tenere la destra o la sinistra era un fatto ipotetico quando passavi il tram. Bene ha fatto quindi, ecco, ed attenzione ce ne vuole parecchio infatti a questo incrocio dove un traffico intensissimo si svolge in condizioni di viabilità quasi impossibili. Bene ha fatto quindi il municipio ad installare il lampeggiatore. Un altro lampeggiatore è stato posto anche al largo Giuseppe Verdi. In seguito dei veri e propri semafori a varie luci verranno collocati nei gangli più importanti di strada. Siamo nel 1938. Cosa, 70 anni hanno i semafori a Bolzano, non di più. I VIP di una volta. C'era molto ossequio nei confronti della nobiltà. Cosa che non c'è oggi, e di riflesso anche per quella nobiltà un po' artefatta e di nuovo conio che era rappresentata dalle gerarchie, specie fasciste. Tiroler Volksblatt, 11 agosto 1906. È un momento di tristezza perché vi leggo un necrologio. Il conte Anton Conte Ceschi a Santa Croce, a nome suo ed a nome dei suoi fratelli Johann Baptist Conte Ceschi, Franz Conte Ceschi, Maria Contessa Attems, Bianca Contessa Corret, della sua consorte Maria Teresa Contessa Ceschi, nata Contessa Harbuval Chiamare, dei suoi cognati Heinrich Conte Attems, Albert Conte Corret, inoltre dei suoi figli, nipote e di tutti i suoi parenti, rende nota con dolore la notizia della dipartita dell'amatissima madre, Sua Eccellenza, la nobile signora Leopoldina, Contessa Ceschi a Santa Croce, nata Contessa von Thun und Hohenstein Dama di Palazzo. Una strage. Una strage. Leggiamone un altro che è anche bello. Questo invece è da sorridere, insomma, non è una cosa triste. È un annuncio di fidanzamento, sempre il Tiroler Volksblatt. Giugno 1905, Josef, barone von Giovanelli zu Gersburg, Hertenburg, signore Landmann in Tirolo, grande proprietario terriero. Grande proprietario terriero, è un titolo di merito. Vabbè, ma non lo scrivi. E Maria, baronessa von Giovanelli zu Gersburg e Hertenberg, nata contessa von Mohr, baronessa zu Lichtenegg, Landstein e Greifen, signora di Montani, Neuhaus e Donsberg, annuncia il fidanzamento da loro figlia, l'illustrissima Maria baronessina von Giovanelli zu Gersburg e Hertenburg, con l'illustrissimo, e adesso che diamo nel banale, signore dottor Ludwig von Fuchs, figlio dell'illustrissimo signor dottor, vedi, proprio non è neanche barone, proprio, no? e dell'illustrissima signora Maria von Fuchs, nata Görres. Poi ce n'è un'altra bella, il giornale nel 1906, sempre Tiroler Volksblatt. Oltre ad informare che qualche giorno fa è deceduto a Gries il ben noto ebreo Wilhelm Deutsch, all'età di 57 anni la sua salma è stata traslata a Breslavia, riferisce, questa è bella perché c'è di mezzo anche il discorso che tu hai citato dell'appendicite. Ma mi stupisce che dici il ben noto ebreo. Il ben noto ebreo, il ben noto ebreo. Sua Altezza Imperiale la signora Contessa Elemer von Lonnier è stata messa al corrente ieri sera tardi dell'attacco di appendicite occorsa a Sua Altezza Imperiale la principessina Elisabeth Windischgrätz e dell'operazione che è stata effettuata oggi alle 9. Sua Altezza Imperiale in questa situazione di grandissima sofferenza non ha potuto pertanto partire in tempo utile. Sua Altezza Imperiale riceve giornalmente due comunicazioni telefoniche, una il mattino e l'altra il pomeriggio, sullo stato di salute di Sua Altezza la figlia. Sua Altezza Imperiale è molto colpita e addolorata per questa triste notizia, per questa sì triste notizia, e in particolare per il fatto che Sua Altezza non è stata messa al corrente prima. Nel settembre, beh, lasciamo stare il resto, passiamo avanti, ah, però dice la nobiltà, mica soltanto la nobiltà di sangue, c'è anche una forma di nobiltà elettiva che è quella del clero. Muore il principe vescovo, siamo nel 1940, quindi c'eravamo, insomma, ecco. Muore il vescovo, l'arcivescovo Celestino Endrici di Trento. Ecco, la provincia di Bolzano annuncia la dipartita di Sua Altezza, Reverendissima, Monsignor Celestino Endrici, principe arcivescovo di Trento, privato domestico di Sua Santità, assistente al Soglio Pontificio, conte romano, gran cordone dei santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'ordine del Santo Sepolcro Gerolsontano. La modestia. Vi racconto del re di Sassonia che è arrivato, vediamo l'orologio, no, ma è già abbastanza tardi. Sì, devo andare un po' veloce adesso, me ne rendo conto. Il Carlo imperatore a Bolzano, una cosa molto interessante, l'imperatore Carlo con la principessa Gita nel 1907. Vestita modestamente. Ma quello sì, quello devo scriverlo. Allora andiamo a cercarlo. Devi dire sì, perché... sì. No, arriva a Bolzano, tra le altre cose visita anche una mostra di Kriegsmaler, di pittori di guerra, l'imperatrice molto carina, che era figurata con piume di struzzo sul cappello. L'indomani il giornale Der Tiroler scrive che scacco matto all'odierna moda, perché la regina, l'imperatrice, è arrivata vestita molto molto molto modestamente secondo il giornale, che sottolinea la sobrietà del vestito dell'imperatore Zita Bolzano, da seguire come esempio. Parole testuali: bisogna francarsi dalle catene con le quali gli ebrei della moda parigina legano tutto a sé in una vera e propria schiavitù. Ecco che riemerge l'antisemitismo. Gli ebrei, la moda parigina è affidata agli ebrei. Vi parlo del duca di Pistoia, vi ho già detto in precedenza qualcosa, quindi non torno sull'argomento. Grandi manovre, arriva il duce, questa è bellina, perché il duce fu a Bolzano nel 1935. Ci sono state delle manovre militari in Val di Non, anche l'imperatore Francesco Giuseppe è andato ad assistere a suo tempo a manovre militari sempre in Val di Non, e il duce ha fatto la sua comparsata in loco. Ho pubblicato una fotografia che mi pare molto simpatica, non so se la vedete qua. Questo in Val di Non è il duce e questo è il re. Guardate la fatica del fotografo per far sì che il re non fosse troppo piccolo rispetto al duce, che non era grande di statura, non era un gigante. Vedete che il Mussolini è più avanti, l'altro è più indietro, insomma un gioco di prospettiva fa sì che sembra che sia sì più piccolo del duce, ma non tanto. Passa per Bolzano, il giornale naturalmente festeggia, cita il duce, molto meno il re. La provincia di Bolzano era organo del Partito Nazionale Fascista, anzi non nazionale, sì, Nazionale Fascista dell'Alto Adige. Leggo, non vi voglio leggere tutto questo esercito, la descrizione che ho trovato sull'illustrazione italiana di questo formidabile esercito, che è l'esercito italiano, che non è inferiore a nessun altro al mondo come esercito. Siamo nel 1935, immaginatevi, che coraggio. squillano le fanfare, il re è a Bolzano, il Mussolini, squillano le fanfare, si elevano i canti della patria, rintoccano le campane a festa, si scandisce l'appellativo fatidico, duce, duce, è arrivato Mussolini. Breve sosta nella capitale delle grandi manovre dell'anno XIII, che è Bolzano, poi via, via tra le montagne, nelle vallate, tra i soldati in marcia, soldato tra commilitoni, magnifico lavoratore per la futura grandezza dell'Italia, tra lavoratori che hanno lasciato la zappa, l'incudine, il martello per imbracciare il fucile, per guidare i carri veloci, per dimostrare quale nuova anima sia in ogni italiano. Poi passiamo a ulteriori notizie, quelle signore, la prostituzione a Bolzano, ho voluto dedicare un capitolo anche a quelle signore. Dovete sapere che a Bolzano c'era molta prostituzione, scendevano dalle montagne le contadine e per arrotondare, specialmente in periodi di fame, di carestia, durante la guerra, poi c'era una guarnigione a Bolzano di Kaiserjäger che era alloggiata, acquartierata, dove oggi c'è il conservatorio musicale, in quell'edificio che era un convento di domenicani che era stato sconsacrato in epoca precedente da Giuseppe II, l'imperatore illuminista, figlio di Maria Teresa per l'appunto. E quindi c'era necessità di avere un bordello a Bolzano. Oltretutto il Consiglio Comunale che decise fece anche una considerazione, forse pertinente, dice Bolzano ormai è una città turistica. E tra le infrastrutture di Bolzano non si può evitare la presenza di una casa di tolleranza. Allora aprirono la casa di tolleranza di via Conciapelli, che forse alcuni tra di voi ricordano, che fu affidata ad un poliziotto pensione. I poliziotti in pensione, i poliziotti in linea generale, oggi c'è carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, eccetera, eccetera, guardie municipali, allora c'erano solo le guardie municipali che erano armate di sciabola e facevano tutto loro. Ecco. Il casino fu uno dei primi edifici collegati telefonicamente col municipio, perché nel caso di disturbi, di rischio o cose del genere, colpo di telefono arrivavano di cose. Arrivava il sindaco. Ecco, e ci si guadagnava anche molto. L'esercizio rendeva decisamente bene, tanto che tale Maria Wiberg, già prostituta e poi tenutaria del bordello, in un paio d'anni aveva guadagnato, leggo il Tiroler del 14-11 del 1912, oltretutto truffando, taglieggiando e derubando quotidianamente le ragazze che lavoravano nella sua casa e che se protestavano venivano cacciate da Bolzano grazie alla compiacenza della polizia. Lo scrivevano i giornali, lo diceva il Tiroler. Fu condannata a 4 mesi di reclusione. Un secondo bordello fu aperto in Largo Mercato, oggi Piazza Verdi, ed è stato spianato dalle bombe durante la Seconda Guerra Mondiale. Ho scritto dei bagni Googler, la prima piscina di Bolzano all'inizio di via San Quirino. I primi voli su Bolzano meriterebbero anche una breve citazione, e io vi voglio solo leggere la prima apparizione di un aereo a Bolzano. Siamo nel 1912, ci sono stati alcuni tentativi di far volare palloni aerostatici, ma senza tanto successo. Però una volta è capitato una cosa incredibile, sul Renon e poi anche a Sette Querce, è atterrato una mongolfiera proveniente da Milano. A bordo c'erano dei fotografi che sono stati subito arrestati perché si pensava che fossero delle spie, invece volevano semplicemente fare delle fotografie dall'alto. Ma io vi racconto la storia del novembre 1912, citata da Der Tiroler, dove si parla di un russo, Slavo Rossov, più volte premiato, che giungerà con il suo Blériot da 5 cavalli. dove c'è oggi il campo Righi, che ci sono stati anche, vi ricordate, c'erano campi di calcio, ancora in epoca Sburgi, che là si giocava a calcio, c'era la squadra maggiore di Bolzano, che era il Rapid, che là giocava. Là i giocatori del Bolzano cercavano di allontanare i sassi, di buttare un po', di seminare un po' d'erba, non ci riuscivano mai naturalmente, perché poi avevano fatto una scaletta per scendere meglio dalla Wassermauer a vedere il calcio, ma la scaletta di legno gliela fregavano, perché era legno, poteva essere bruciato, intanto scompariva, dovevano mettere un'altra scaletta, ma pensate che mondo, vabbè che oggi si ruba di più forse, ma è patetico pensare. Allora, cronaca del Tiroler, ci sono venduti i biglietti sull'una e sull'altra passeggiata del Tadere. Il cronista: chi verso le 14:30 si fosse trovato a passare su Ponte Talvera avrebbe avuto modo di ammirare un quadro vivace e interessante. Nel greto del Talvera era stata eretta una capanna, davanti alla quale riposava un moderno gigantesco uccello, un aeroplano. Su entrambe le passeggiate, a sinistra e a destra, e su entrambi i ponti del Talvera, l'altro era quello di Sant'Antonio, si trovava un'enorme folla. Perfino i tetti delle case erano affollati di curiosi. L'aereo decolla, non so come ci sia arrivato a Bolzano, ma penso che l'abbiano smontato e portato. Credo che avessero fatto così. Rulla, decolla, fa un giro su Bolzano, fa un altro giro su Bolzano e poi, nella delusione generale, se ne va. C'è la storia dei velocipedastri. Biciclette. Le biciclette. Velocipedastri. Reggiamo il Landsman. Velocipedastri è un termine dispregiativo, logicamente, che è stato loro affibbiato dalla provincia di Bolzano. Però vi voglio leggervi questa inserzione pubblicitaria del 1924, è casa ciclistica Fratelli Mick, avete presente? Ecco, che aveva la sua prima officina in via Goethe, poi in via Ospedale, adesso nella concessionaria della Ford, mi pare, in zona industriale. In piazza Walter verrà presentata una nuova bicicletta con seggiolino molleggiato, adatta a signori, signore, sacerdoti e malati di cuore, grazie al rapporto agevole di cui è dotata e all'assenza di urti che garantisce. Quindi i sacerdoti potevano pedalare tranquilli. Più avanti, leggo del 1934, adesso la provincia di Bolzano, ogni giorno, febbraio del 36. Ogni giorno i ciclisti danno un largo contributo alla rubrica delle disgrazie della strada e dall'elenco delle contravvenzioni risulta che i ciclisti sono una vera piaga per il traffico cittadino. Ecco perché abbiamo detto che l'invenzione della bicicletta ha rappresentato un guaio per l'umanità. Sì, ho scritto qualcosa sui Kriegsmaler, una cosa molto interessante, la mostra che è andata a visitare l'imperatore Carlo con la moglie Zita, adesso non mi voglio soffermare troppo perché sennò andiamo tardi. Kriegsmaler però è una realtà molto interessante, facevano parte della pubblicità, della propaganda dell'esercito austro-ungarico durante la guerra. Un bravo pittore, e cito Egger Linz, cito due Stolz, chi c'era ancora? Ce n'erano ancora altri, insomma, venivano impiegati, arruolati nell'esercito, e avevano il compito di disegnare o scolpire quadri che avessero una funzione propagandistica. Ne venivano fatte delle cartoline che venivano vendute, eccetera, eccetera. Questo è un discorso molto interessante che è stato poi ripreso anche da, in particolare dal fascismo e dal nazismo, insomma, questo affidare all'immagine la costruzione dell'odio e del sostegno per i propri combattenti. ci sono le biennali di Bolzano, molto interessanti, hanno scritto qui, ma non voglio soffermarmi sul tema perché sennò si va troppo per le lunghe. La colonna dei caduti a Tesini, a Bolzano, dietro il monumento. Guido Preda, il legionario di Spagna, medaglia d'oro, abbattuto nella guerra di Spagna in zona basca. Vi ho raccontato la storia dell'oro alla patria. L'oro alla patria, siamo all'epoca delle inique sanzioni, torniamo sul tema. Questo qui è un legionario morente, scolpito da Raimondo Mureda, che sarà Moroder, penso io, a Palazzo Venezia. Questo è Mussolini, e questi attorno sono tutti artisti altoatesini, che per l'occasione erano andati giù. Questa statua era stata premiata in una delle biennali di Bolzano, che iniziarono nel 1922, avevano per l'appunto lo scopo di sostenere l'arte, specialmente l'arte politicamente pilotata. Oro alla patria, siamo... Questo qui è anche interessante, va bene. Se lo comprate ve le leggete queste storie. Questo qua è Guido Prese, quella medaglia d'oro di cui vi ho detto prima, gli aerei sui quali volavano, senza insegne italiane, perché l'Italia non era ufficialmente presente. C'è il discorso di Walter von der Vogelweid, che è anche molto bello. 1898 è stata costruita, è stata eretta questa statua, scolpita dallo scultore venostano Natters. E un po' di cronaca: dopo la festosa ouverture suonata dalla banda reggimentale Arciduca von Cumberland, si fece avanti Sua Eccellenza Imperiale l'Arciduca Heinrich con la consorte baronessa Weideck e la figlia baronessa Maria. Con seguito scoprimento della statua e segue il discorso ufficiale del noto germanista berlinese, e qui torno a sottolineare la circostanza che l'orientamento politico era rivolto più verso Berlino che verso Vienna, quantomeno a Bolzano. Dottor Karl Weinhold, che dice: Walter era anzitutto un uomo tedesco, egli apprezzò gli uomini tedeschi come i migliori, le donne tedesche come le più oneste e belle. E poi parla il sindaco von Breitenberg, che dice: finché questo monumento resterà qui, possa la nostra città restare tedesca. Poi fu spostato naturalmente dai fascisti, i quali fascisti prima dissero che non è vero e poi lo fecero con estrema coerenza. Siamo al Piccolo Posto, un giornale che si stampava a Bolzano, prima a Merano, poi a Bolzano, organo ufficiale a Merano del Partito Fascista. Il 10 febbraio 1926 il Duce parla alla Camera. Si erano sentite voci di uno spostamento possibile del monumento di Walter von der Vogelweid. Dice il giornale: discorso di Mussolini, parole precise. Si è mentito quando si è parlato di una rimozione del monumento a Walter von der Vogelweid, che sorge in una delle piazze di Bolzano. Noi, rispettosi della poesia, anche quando è mediocre, in verità insatta, che il più grande noi che non possiamo accettare l'antitesi tra Dante e Walter Vogelweid, nuova ilarità in sala, perché equivarrebbe a stabilire una possibilità di comparazione fra il Pincio e l'Himalaya, noi lasceremo intatta la statua di questo vecchio troviero germanico, ma in una piazza di Bolzano, per sottoscrizione del popolo italiano, sulle stesse fondamenta sulle quali doveva sorgere il monumento della vittoria tedesca, erigeremo un monumento a Cesare Battisti. Vivissime approvazioni, calorosi applausi. Era l'annuncio questo della costruzione del monumento alla vittoria, che all'origine doveva essere un monumento dedicato a Cesare Battisti, se non che la moglie di Battisti non ne volle sapere. Era di sinistra, come era di sinistra Cesare Battisti, che era collega di Mussolini finché Mussolini era a Trento, perché anche lui era di sinistra, no? Interessante. C'è la vittoria con i fasci, 167, vediamo se vale la pena citare anche queste pagine. Insomma, c'è un po' di prosa aulica che sarebbe simpatico citare. La provincia di Bolzano, il monumento fu la posa della prima pietra fu del 26, presente il re, l'inaugurazione fu del 28, presente il re. Il sovrano consacra la provincia di Bolzano, il giornale. Il sovrano consacra del monumento alla vittoria il segno antico e nuovo del diritto immortale d'Italia. Questo è il titolo. L'articolo incomincia così. Questa è una prosa, io oserei dire d'annunziana. Al punto di dover rendere conto ai lettori della celebrazione di cui ancora nelle strade vapore il caldo entusiasmo, ci si accorge della povertà delle espressioni che la consuetudine ci fa adoperare, ci si accorge della loro insufficienza meschina, tanto la celebrazione di ieri ha oltrepassato nella sua esteriorità, nel suo valore di significato, tutte quelle alle quali ci accade di assistere quotidianamente. La penna stenta a ritrovare le vie abituali e si vorrebbe che le parole riacquistassero la loro significazione schietta e gli aggettivi il loro intenso effetto nativo per rendere il quadro di ieri al quale Bolzano ha offerto la cornice della sua conca di sui monti e l'Italia intera e le immagini e i personaggi. Questo è, insomma, un articolo che incominciava così. Poi c'era la cronaca naturalmente immaginifica dell'inaugurazione. Salto e vado oltre. Ma questo ve lo voglio citare. Sappiano i reali carabinieri, pagina 185. Nel 1922, con molta buona volontà, le autorità italiane hanno distribuito questo, un manualetto di conversazione scritto da Eugenio Bonatta, che era o padre o nonno del professor Cesare Bonatta, mi pare che fosse suo padre, che era insegnante di italiano, e fece questo libretto a ciò che carabinieri e chi di dovere, nel avvicinare gli elementi di lingua tedesca dell'Alto Adige, che non sapevano una parola, virgola una, di italiano naturalmente, all'epoca siamo nel 1922, potessero stabilire un colloquio, insomma, cosa peraltro difficilissimo. E quindi c'erano anche tutta una serie di modi di comportamento. Spiegava anche le usanze. Nella valle di Taufers e della Pusteria, questo è un avviso rivolto ai carabinieri, sappiano i reali carabinieri, i giovanotti che sono in relazione amorosa con una ragazza vanno a visitarla per lo più nella notte del sabato e della domenica. A tal uopo, mediante una scala a piuoli, entrano dalla finestra nella stanza della ragazza, ove si fermano più o meno a lungo secondo le circostanze. Tale usanza la chiamano Einstein o Fenster, entrare per la finestra. Può darsi benissimo che i regi carabinieri durante le pattuglie notturne abbiano a sorprendere qualcuno nell'atto di scalare una finestra. Sappiano dunque che molte volte non si tratta di furto. Poi c'è il balilla dell'Alto Adige, tutta un'altra bella cosa da raccontare. Passo oltre anche l'inaugurazione del cinema a Roma con la lunghissima proiezione di un discorso di Mussolini, il cinema a Roma di via Cappuccini. Si arriva al sindaco Peraton, si arriva al compositore Ludwig Twiller, si arriva a Max Valieri, il bolzanino tra le nuvole. Ha fatto i primi razzi, il padre, in un certo senso, dell'esplorazione spaziale. Lui era un po' un fissato dell'astronomia, non solo, ma anche dell'esplorazione spaziale. È stato d'esempio a Werner von Braun, che ha lanciato le prime, da Peenemünde, le prime V1 e V2, Vergeltungswaffe vuol dire V, ed è poi stato catturato dagli americani, che grazie a lui hanno varato la prima esplorazione spaziale e la conquista della Luna. Quindi Max Valier di Bolzano, in un certo senso, è stato l'antesignano dell'esplorazione del cosmo. E Max Valier è morto a bordo di una vettura Opel che lui aveva lanciato a folle velocità, spinta da un razzo, nei pressi di Berlino. Parliamo dell'ultimo personaggio, il questore Renato Mazzoni. Il questore Renato Mazzoni è un personaggio molto singolare, poi lo voglio fare vedere qui. Venne a Bolzano nel 1946 ed era un uomo fuori dal comune. In un periodo nel quale le strutture erano ancora in gran parte fasciste, non si può dall'oggi al domani, dal 43 al 47, cambiare, rivoluzionare tutto. Lui, con estrema lungimiranza, incominciò a capire molte cose, capì molte cose. Era commissario in Veneto della Polizia Ferroviaria, in tale veste aveva stabilito dei contatti tra gruppi di partigiani, di combattenti per la libertà, fu designato nel 1947 alla questura di Bolzano, prima come vicequestore, poi, anzi, la nomina venne subito dopo. Le cose andavano male. Perché? Perché la struttura qui, in Alto Adige, non era matura per il passaggio, dopo anni di persecuzione del tedesco, diciamolo pure questo, di apartheid, non era possibile dall'oggi al domani ricostruire immediatamente i rapporti tra i due gruppi etnici. E, però lui l'aveva capito, che la via possibile per una pacificazione, per un progresso in Alto Adige, passava attraverso il colloquio. Lui, che era veneto, non sapeva una parola di tedesco, cominciò a studiare tedesco. Studiava tedesco e leggeva in tedesco addirittura i filosofi tipo Hegel, che io non mi sentirei di leggere adesso neanche a morire. Le cose andavano male. Il ministro degli interni gli scrisse di fare una relazione. Nel marzo del 1957 lui così risponde al ministro degli interni, vi cito in breve la lettera. Penso che il tutto sia derivato, l'attenzione, da una grave carenza culturale, quindi miopia politica della classe dirigente trentina, la quale, non avendo capito quale strumento prima culturale e poi amministrativo per una pacifica convivenza in regione fosse lo statuto di autonomia, ha perso un'occasione storica per dimostrare all'Europa la possibilità di una libera, civile, democratica convivenza tra due gruppi etnici in un ambito territorialmente definito. Altrettanto anticulturale il considerare decadente folklore ogni manifestazione della vita sudtirolese, rifiutandoci di comprendere come la etnicità non sia soltanto lingua, ma anche un dialetto, usi, costumi, tradizioni, quindi tutto quello che ci giunge dal passato. Il definire civiltà della Stube tale tipo di etnicità dimostra solo arroganza e demagogica contrapposizione di una presunta superiorità della civiltà latina nei confronti di ogni altra differente manifestazione di vita. Il sistematico rifiuto della comprensione, l'ignoranza della lingua tedesca da parte di uomini politici, magistrati, alti funzionari dello Stato, ha creato un'impenetrabile barriera alla comprensione delle esigenze etniche del gruppo minoritario. Queste cose le scriveva nel 57. Gliele mandava mica. Nel 57, no, non gliele mandava a dire. Più avanti, in questa sua opera anticulturale e antistorica, la classe dirigente trentina ha trovato potenti alleati nei circoli nazionalisti altoatesini, annidati in tutti i partiti e con particolare potenza nella Democrazia Cristiana e nell'apparato burocratico dello Stato ad ogni livello, a Roma come a Bolzano. Non va sottaciuta nemmeno l'opera deleteria della stampa. E conclude: penso a mio figlio, che è qui presente in questa sala, e a quelli che dopo di lui verranno, i quali, oltre a non comprendere i loro coetanei di lingua tedesca, non saranno nemmeno competitivi con gli stessi nel trovare occupazione non solo nella burocrazia, ma in ogni altra arte o mestiere. La pretesa da parte della classe politica trentina di mettere sotto tutela il gruppo etico italiano in funzione antitedesca per una rivalsa nettamente provincialistica, quale riparazione di presunti torti subiti nel ventennio, ha ulteriormente aggravato la situazione. Fatale è stato quindi che il gruppo etico tedesco si sentisse tradito nelle sue aspirazioni ad una vera autonomia e quindi facesse risuonare lo slogan Los von Trier. Si badi bene che Los von Trier non vuole ancora dire Los von Rom. Se con alta intelligenza politica si vorranno riannodare i fili del dialogo e ricondurre tutto il problema nella sua naturale sede, che è profonda revisione dello statuto. conclude più avanti, signor Ministro, offro a lei la mia completa disposizione. Quale? L'ho conosciuto. Era una brava persona, scusatemi. Quale poliziotto? Si definisce poliziotto, con la P maiuscola. Al servizio dello Stato per tutto ciò che mi sarà consentito di fare. Ho sempre saputo che il servizio dello Stato comporta anche il saper accettare il sacrificio di personali posizioni. Tuttavia intendo affermare che se dovesse presentarsi questa evenienza, con altri drammatici momenti, scusate ancora una volta, ma se sono la vecchiaia porta. La mia vita pubblica e privata, la linea di condotta da seguire mi sarà dettata unicamente dalla mia coscienza, ultimo tribunale del mio agire. Non fu capito, fu trasferito a Treviso, dove si uccise con un colpo di pistola. È un applauso che va a questo Remazzoni, naturalmente. Vi ringrazio della serata. Mariano Mazzoni. Le perle davanti. Vi ringrazio, dottore, perché sa sempre proporci